quando sento Giovanni dirmi che mi ringrazia anche a nome di Viola, che ha pianto tutta la notte per la felicità e che finalmente avranno un bambino, mi chiedo chi sono io per decidere a chi dare o non dare una mano. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:09, questa è Radio 24 in diretta dalla Beat. Sono Matteo Caccia e sono qui. Sì, perché è così anche qui alla Beat, eh? Cioè, la preparazione per qualsiasi cosa si faccia per la prima volta è un po' come la preparazione ad un viaggio. Cioè, se quella cosa arriva imprevista, il problema non si pone, ovviamente, no? Perché uno si trova ad affrontarla e manco lo sa. Non ci ha meditato sopra, non è preoccupato, la fa, punto. Altrimenti, la prima volta che facciamo, ad esempio, un esame, no? Che saliamo su una giostra, che affrontiamo un lavoro nuovo, assomiglia sempre ad una partenza. E ogni partenza va ben preparata. Innanzitutto bisogna immaginare che cosa ci servirà e cosa sarà superfluo. Bisogna pensare che staremo via di casa per un bel po' di tempo e che ci mancherà sempre qualcosa. Che non avremo a disposizione le cose e le persone che abbiamo a casa. Ma soprattutto dobbiamo cercare di capire che cosa saremo noi quando saremo là. Perché non è così scontato essere la stessa persona quando sei in un posto sconosciuto. Così come non sia la stessa radio qui o in via Monterosa 91. Per evitare panico da prima volta, io ogni volta che parto per un viaggio seguo una ritualità ben precisa. 1. Stampo su un foglio tutti i numeri e gli indirizzi che possono essermi utili. 2. Preparo un mini kit di pronto soccorso. 3. Compro un dizionarietto con le frasi più utili. 4. Fingo una vestizione. Non so se avete presente, proprio faccio finta di vestirmi. Parto dalle scarpe fino al cappello e controllo di avere preso tutto. 5. Faccio una cena con un paio di amici per ricordarmi in qualche modo chi sono io. 6. Difficilmente dormo bene tutta la notte. Se voi vi state preparando a partire per un viaggio, se vi state preparando oggi per domani o per la settimana prossima o il mese prossimo, oppure se avete una ritualità ben precisa nello svolgimento della preparazione di ogni viaggio che state per intraprendere, anche oggi io sono qui. Sono qui, sono le 16:11, buongiorno a tutti, in diretta da Rho, credo, siamo a Rho, giusto? La Borsa Internazionale del Turismo. È un posto strano, come tutte le fiere c'è un sacco di gente che non si capisce bene da dove arriva e dove va, ma soprattutto che cosa ci fa qui. Io ho questo tarlo che mi tormenta quando sono arrivato, proprio qua dietro, no? Dicevo prima a Pagliarini durante il GR, Radio 24 è proprio tra la Calabria e la Lombardia, e qua dietro ci sono due stand degli aeroporti calabresi, uno è quello di Lamezia Terme e l'altro di Reggio Calabria. Ebbene, ci sono due signorine che sono lì e che sostanzialmente aspettano che arrivi qualcuno, però per quale motivo uno dovrebbe essere interessato a andare lì all'aeroporto di Reggio Calabria a chiedere informazioni? Intanto, come sentite, c'è il bling bling dell'ospedale sopra la nostra testa che ci annuncia che sta accadendo qualcosa alla Beat. 349-238-6666 oppure 800240024 per chiamare in diretta anche qui o raccontarmi se voi avete presente, no? Proprio un rituale, cioè qualcosa che voi dal giorno prima di partire mettete in atto, che vi dà tranquillità, che vi dà sicurezza, oppure no, semplicemente è un rituale, quindi come tutti i rituali spesso non hanno alcun senso. Se però ce l'avete, magari lo state preparando proprio adesso, 349-238-6666 per scrivere un sms, oppure 349-238-6666 800240024 per chiamare. Per esempio Chiara mi scrive così, c'è sempre un profilo Facebook anche se siamo alla Beat, io Matteo Caccia, io sono qui. Chiara: io penso solo al viaggio, a cosa fare, a cosa vedere, l'itinerario diverso in tutti i giorni, compro la guida e la sera prima valigia e doccia finale molto lunga. Questa della doccia finale molto lunga non è la prima, è l'unica che la fa. Di solito non dormo perché finisco tardissimo per l'eccitazione e arrivo sempre in grandissimo anticipo. Nicola: calzini e mutande sono la mia priorità, scelta della valigia, ma sì, però non voglio sapere che cosa mettete nella valigia, non mi interessa proprio il rituale della partenza, come se fosse una prima volta. Puntualmente mi dedico tutto ciò che riguarda il kit di pronto soccorso, mi affido alle medicine e poi esercizio il volo con dei documentari sugli aerei, ovviamente. Esther: non manca mai la lista del vestiario. Metto giù una lista come se stessi vestendo: intimo, calze, magliette, maglioni, jeans, pantaloni, scarpe, giubbotto, giacca, per poi fare una lista del bagno, ovviamente, spazzolino, dentifricio, doccia, schiuma, ogni cosa messa in valigia, borsa, poi la depenno. Sono un po' schematica, mi scrive Esther. Tra l'altro c'è un'altra cosa che mi tormenta prima di raccontarvi, ve la devo raccontare prima di raccontarvi com'è andata oggi, perché poi stamattina prima di venire alla Beat ho fatto appunto una sorta di piccolo viaggio e mi sono preparato molto bene a quel viaggio e adesso ve lo racconterò. È che qui vicino, allo stand, parlo piano perché non vorrei che mi sentissero, allo stand della Calabria ci sono due ologrammi di bronzi di Riace, ve lo giuro, proprio i bronzi di Riace, che quando passi evidentemente c'è una fotocellula, no? Ti dicono, ehi tu, vuoi fare una foto? E tu ti avvicini e c'è un flash che scatta e poi ti dicono cosa c'è nel stand della Calabria. Se vi capita di passare, credo domani la bizia è aperta. Insomma, è la solita esperienza da fiera. Tanta gente, ma a sostanza... 800240024 349-238-6666. Mi sono preparato molto bene e questa mattina è andata così. E così oggi è stato il mio primo giorno di lavoro. Cioè sì, è vero che ne ho avuti tanti di primi giorni di lavoro, però siccome ogni volta è un po' come se fosse la prima volta, oggi me la sono fatta veramente sotto. Come un ragazzino all'interrogazione, come un bandito prima della rapina, come un paziente prima dell'operazione, o come un giocatore prima di una partita. Quando mi sono svegliato alle 6:30 stamattina, il mio reflusso gastroesofageo era violento come un infarto. E hai voglia lì, tisane al finocchio e malox? L'ho preso come un segno. Mi sono preoccupato un po', ma in fondo è anche bene prendere sul serio le cose, no? E così, dopo qualche tentennamento, ho preso la Vespa e via, verso l'appuntamento con Giovanni alle 8 al bar davanti alla biblioteca. Nathalie mi guardava uscire di casa come un eroe, mentre io ero semplicemente indeciso. Mi aspettavo di trovare la città mezza addormentata quell'ora, tipo, che so, la Rimini dei vitelloni, no? Un risveglio lento e sbadigliante. Invece no. File infinite di macchine piene di mamme e di bambini, di operatori di banca, insegnanti, infermieri e impiegati, piene di lavoratori di ogni genere. Insomma, una battaglia. Si vede che non sono più abituato alle ore di punta. Mi sono veramente sorpreso. Poi mi sono fermato a un semaforo in Viale Tibaldi e io ho visto, avete presente, i soliti due che chiedono l'elemosina, quelli del semaforo. E ho pensato che doveva essere duro anche per loro. Freddo e presto. Uno zoppicava, era sporco. L'altra invece ha attirato subito la mia attenzione perché lanciava per aria il suo cappello. Cioè, nel senso che era un giocoliere. Un ragazzotto tutto ben tenuto, probabilmente italiano, con una bella giacca da circo e un po' di cerone in faccia. Anche la barba era ben tenuta. Faceva dei numeri pazzeschi e io ero quasi contento. Ho pensato che fosse bello, no? Far sorridere la gente al semaforo. Tutti quanti con quei grugni duri che si addolcivano. Stavo per togliermi i guanti e mettere la mano in tasca per cercare dei soldi, quando ho girato la testa e ho rivisto lo zoppo. Probabilmente era rumeno, comunque era straniero. Era vestito male, male odorava. E lì ho pensato che il mondo fa veramente schifo, proprio perché io stavo per dare l'elemosina alla persona sbagliata. Che quello a cui stavo per dare i miei soldi era un ragazzo bello e divertente, uno che sa fare qualcosa e che lo mostra, no? Uno che sa far divertire. Mentre all'altro, a quello senza arte né parte, senza sorriso, senza niente, non avevo nemmeno pensato di dare qualcosa. Com'è che si dice? Piove sul bagnato, ecco. Ecco, io ero una goccia di pioggia. Ero quello che premia uno perché è fortunato e schifa l'altro perché è un poveraccio e pure brutto. Sono ripartito verso la mia meta con le mie belle monete in tasca. Le avrei usate più tardi per un caffè, a mezza mattina. Bring yourself just a little closer, baby, you know what I like. Give me something that will make me crazy, baby. I don't want to feel like me tonight. Make it real, make it right. Arrivato di fronte alla biblioteca, mi accorgo che l'acidità mi è passata. E lo so che cos'è. È merito della guida. Cioè, io quando guido la Vespa, è come se diventassi un'altra persona. Cioè, mi concentro talmente su quello che faccio che non penso più a niente. È perché lo so che è una cosa pericolosa e che Milano non fa sconti, che è necessario stare attenti a tutto, alle portiere di quelli che hanno appena parcheggiato, agli altri scooter, alle rotaie, al pavé, a tutto. E in qualche strano modo per me è terapeutico. Cioè, il mio corpo si dimentica dei miei problemi e riprende a funzionare perfettamente. Ho preso anche questo come un segno, stavolta positivo. E quando mi sono tolto il casco per salutare Giovanni, stavo sorridendo. Giovanni era felice, perché senza cercarlo aveva trovato qualcuno che lo sostituisse per un mese, mentre lui andava a Valencia a cercare di fare un figlio, con l'aiuto della scienza e di Dio, perché Giovanni, nonostante tutto, è molto religioso. Manca un'ora all'apertura degli uffici. Giovanni mi deve istruire di tutto. Ce la farà, perché il lavoro del bibliotecario alla fine è piuttosto semplice. Le questioni difficili sono solamente quelle legate alle aperture e alle chiusure, insomma, alle chiavi. Però mi tranquillizza il fatto che ci saranno a fianco me Ciccio e Nonna Papera ad aiutarmi. Ciccio e Nonna Papera sono i due suoi colleghi che lo copriranno in questo mese e che mi faranno da chioccia. Ecco, questo mi rassicura. E dopo una brioche al cioccolato sono pronto. Ascolto e prendo mentalmente nota. Ora so come dare un libro in prestito e come prendere la restituzione. So dove sono i DVD e conosco le regole di base delle biblioteche italiane. Giovanni è stato bravo, è stato preciso. E ha scritto una pagina di indicazioni per me. La metto in tasca come fosse il Vangelo. In quello scambio mi sento come se Mazzini mi avesse dato indicazioni sulla prossima riunione della carboneria. Investito di potere e responsabilità. Prendo, salgo le scale mentre mi coglie il pensiero tragico, in un attimo, un lampo, di stare commettendo un reato. Cioè, in fondo sto millantando credito, no? Cioè, sto occupando un'altra identità. Cioè, eseguirò dei compiti che non mi sono mai stati dati. E chissà quante altre cose. Ma se mi beccano, che so, se qualcuno si lamenta, se faccio una vaccata. Improvvisamente comincio a sudare e sto per dire a Giovanni che niente, Giovanni, guarda, non se ne fa niente, che se devo proprio andare in prigione deve essere almeno per una rapina, ma tipo quelle dei film, no? Con i sacchi pieni di banconoti, con le facce coperte da maschere. Insomma, improvvisamente però sento Giovanni dirmi che mi ringrazia anche a nome di Viola. Viola pianto tutta la notte per la felicità. Finalmente avranno un bambino. E lì io mi chiedo chi sono io per decidere a chi dare o non dare una mano. Chi sono io per decidere chi merita e chi non merita l'elemosina? Perché non ho dato i soldi al giocoliere oggi? Chi mi credo di essere? Alla fine sono solo una roba grossa così e sono pezzo di un tutto molto più grande di me. Ho pensato, vai a lavorare, va. Giovanni si è girato e mi ha detto, dimmi Matteo, cosa c'è? Erano le 8:55. No, sai cos'è Giovanni? Che non abbiamo parlato di soldi, gli ho detto. Lui mi ha guardato. Senti, ti do 2 mesi del mio stipendio, ticket restaurant compresi. Che ne dici? Ottimo. Andiamo. Rock and roll. Ogni volta che parto penso che morirò in aereo, che i miei figli resteranno senza padre. Li immagino nella solitudine del loro letto e mi commuovo. Marco. Questo più che un rituale, Marco, direi che è un'ossessione. Guardo piantine dettagliate della zona dove vado, mi segno i numeri delle ambasciate italiane, se vado all'estero. Prendo tutte le informazioni possibili sugli ospedali locali. Poi, come d'incanto, parto tranquillo e non succede mai nulla di tragico. E ormai è una scaramanzia. 800240024 oppure 349-238-6666, anche da qui, dalla beat, i numeri sono sempre quelli. Se avete delle scaramanzie particolari che eseguite prima di partire per un viaggio, proprio perché quello che vi ho raccontato prima è stata, diciamo, la prima volta questa mattina alla biblioteca rionale, di cui non faccio il nome, anche se l'avete capito, ed era un pochettino come partire. Dario mi dice, faccio una checklist per abbigliamento, pronto soccorso e documenti. E poi Paolo invece, questo è proprio un rituale, prima di partire per un viaggio, la sera prima, sempre pizza e birra. E poi dov'è che l'avevo perso? Eccolo qua, Giorgio da Bologna. Io mando le password delle banche e le chiavi della moto al mio amico Max, che se... puntini puntini. Poi ho scoperto che noi abbiamo un ascoltatore assiduo del programma che ha anche un profilo Facebook, ci potete risalire passando da quello del programma, che Matteo Caccia, io sono qui, che praticamente ha mollato tutto e ha deciso di partire. Sono dei viaggi particolari e visto che ha anche un sito che si chiama pazzodaviaggiare.com, mi pare, sì, pazzodaviaggiare.com, ho pensato che era meglio che me lo raccontasse direttamente lui. È Andrea Campanella. Pronto Andrea? Buonasera Matteo, come va? Ciao, come stai? Io bene, tu? Beh, insomma, qualche acciacco della stagione, però non c'è male. Senti, ma tu non è che sei per caso qui in giro alla Beat pure tu e non ti ho ancora visto? Sono a Vicenza, sono in quel di Ponte di Barbarano con i miei cagnolini che sono venuto a portarli a fare una passeggiata. Senti, raccontami un po' anche dallo stress della tua chiamata. Senti, raccontami, immagino lo stress, lo sento. Raccontami un pochettino tu che cosa facevi prima, che cosa fai adesso e cosa farai tra due mesi, parti? Quando tra un paio di mesi, sì, ad aprile, diciamo metà aprile così. Cosa facevo prima? Beh, quello che facevo prima è quello che faccio anche adesso. Lavoro, faccio il marito e... Che lavoro fai, Andrea? Sono tecnico dei sistemi di sicurezza bancari, sono per una ditta che produce bussole antirapine, sono quelle scatole. Scusami, bussole antirapine? Esatto, quelle scatole con metal detector che ti rompono le scatole, dicono di uscire e di depositare gli oggetti metallici nella cassettina. Ok. Però... Allora... Pronto Andrea? Sì, ci sei? Eccomi. Ero uscito dalla macchina per fare due passaggi, così mi metto già in viaggio adesso per raccontarti. Però di fatto, qual è la cosa più interessante che stai facendo? La cosa più interessante, se parliamo di rituali, è quella di chiamare te, di chiamare anche altri per dare visibilità alla mia missione, perché non è solo un viaggio. In fondo il viaggio è la cosa personale, perciò da quello che è nata l'idea, insomma. E poi da lì ho unito anche un po' tutto quello che è il mio essere, perché il viaggio, almeno quello che dimmi però dove vai e cosa fai, Andrea, così andiamo al cuore della cosa, altrimenti qua la Beat ci stiamo fino a dopodomani e sinceramente io andrei tra un quarto d'ora. Il tour dell'Europa occidentale e del bacino mediterraneo, sperando che si mettano un po' in pace in questi mesi che io attraverso l'Europa occidentale. Come lo fai? In bicicletta, perciò parto qua da Vicenza, mi sto facendo le mie belle tappe al computer attraverso il mio blog, cercando tutti i contatti che potranno aiutarmi, e perciò dandomi dell'ospitalità. Quindi fondamentalmente, Andrea, per te la preparazione è proprio, come dire, sistematica attraverso internet e cercare ospitalità, ma però guardavo sul tuo sito, che ricordiamo è pazzodaviaggiare.com, tu di fatto raccogli dei fondi, giusto? Esatto, io diciamo il viaggio, la fatica maggiore nell'organizzazione del viaggio è stata quella di trovare una partnership, che è stata la partenza poi del viaggio, che è quello che mi ha impegnato più tempo, perciò trovare qualcuno che accettasse il mio impegno e che ricevesse eventualmente i fondi che riesco a recuperare. Io questo sono riuscito a farlo in 6-7 mesi di email, contatti, anche di qualche viaggetto a Milano, a Roma, per parlare direttamente, insomma, con le persone a cui ho proposto questa cosa. E sono riuscito a trovare Maurizio De Romedis con la Iconlus che... Senti Andrea, scusami un secondo, perché purtroppo io adesso devo lanciare la borsa, però io vorrei capire una cosa: tu parti tra due mesi, mi hai detto? Sì. Allora facciamo così, noi ci sentiamo, ci rimaniamo in contatto e ci sentiamo il giorno della tua partenza, così ci racconti come parti e poi come sta andando. Sarò anche meno nervoso. Ecco, lo spero. Andrea, ti ringrazio molto e buona giornata. Grazie Matteo. Ciao, grazie. Una settimana prima di partire faccio una lista in Excel di tutte le cose da prendere, mi appunto addirittura di prendere il portafoglio. Marta Bergamo che ricorda: auguri Tiziano, perché anche se Tiziano Bonini oggi non c'è perché è malato, è il suo compleanno. Ora la borsa e dopo dal Beat Io Sono Qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao e sto qui. Nella foto di oggi, anche se siamo alla Beat, anzi forse proprio perché siamo alla Beat, un pochettino rischi di essere tratto in inganno, perché tu la guardi e vedi un paesaggio notturno, e come tutti i paesaggi notturni l'unica cosa che puoi vedere sono le luci, giusto? Quindi appena lo guardi dici, beh, che cos'è? Parigi ovviamente, c'è la Tour Eiffel. Poi butti l'occhio intorno e ti accorgi che c'è qualcosa di strano, perché la Tour Eiffel è contornata da palazzi altissimi di almeno 30-40 piani, scritte soprattutto molto luminose, mongolfiere anche quelle illuminate, laghi e laghetti che sono chiaramente artificiali, e poi una cosa che hai visto da qualche parte, tipo in un CSI oppure in qualche foto che hai già visto di qualche amico che è stato negli Stati Uniti, ed è l'Hotel Bellagio, perché quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Marco Bo, 42 anni, sono qui io, tra migliaia di persone che si schivano con attenzione, sotto la luce di riflettori, laser che proiettano immagini tridimensionali, cerco un po' di nebbia per riflettere, un po' di silenzio per ascoltare, io sono qui. Ecco Marco, allora fai un salto alla beat se ti capita, se vuoi un po' di nebbia per riflettere e un po' di silenzio per ascoltare, è proprio il posto ideale. Sono del Marocco, mi scrive Makil, andate a vedere lo stand, è molto interessante. Va bene, non so dove sia, probabilmente al padiglione 1. Sto andando in aeroporto senza bagaglio, ho deciso d'improvviso, voglio vederla. Ma chi? Cioè ragazzi, se mi mandate un messaggio, almeno spiega, non dico tutta la storia, non dico i dettagli, però... Io rimando fino all'ultimo minuto. La sera prima, tardissimo, inizio una vestizione fantastica, metto tutto in valigia, le ultime cose sparse nel tragitto, bagno, uscita, preparo biglietti sul portafoglio, verifico documenti, preparo intimo in zona doccia, vestiario di viaggio sul divano, se per lavoro ripasso gli appuntamenti in una simulazione mentale, se per piacere rileggo la guida, no medicine e portano sfiga, il mattino mi vesto guardando il meteo, parto con anticipi enormi. Stefano di Verona. Stefano, sto già male solo a pensare che devi andare un fine settimana in montagna. 800240024. Invece, prima mi ha scritto Enrico da Reggio Emilia. Io mi metto il fazzoletto da viaggio, che è sempre lo stesso da 25 anni, altrimenti non parto. Pronto Enrico? Ciao, sono qui. Ciao, e anch'io sono qui. Sei qui? Sei alla BIT anche tu? No, sono qui sulla strada che andando a Milano. Ok, allora guarda, ma sei di strada, fermati un secondo, ci sono un paio di padiglioni qui, niente male. C'è addirittura uno che fa dei castelli di sabbia poco distante da qua, dallo stand della radio, un signore straniero con la gente che gli fa le foto di fianco a lui e al suo castello di sabbia. Enrico, raccontami esattamente che tipo di fazzoletto sei un boy scout? No, assolutamente, è che io adesso ho 40 anni, quando ne avevo 13 sì? Sono andato per la prima volta all'estero da solo in Francia e sono andato sulla Manica. Sì. E mi hanno detto di portare qualcosa da mettere intorno al collo, spesso di piove, c'è umidità, per proteggermi. E in casa non avevo niente, tranne un fazzoletto enorme, giallo e rosso, orribile, con dei fiori. Tipo da paglio di Siena, una roba del genere? Ma no, peggio, è una roba inguardabile, da vergognarsi. Ce ne vuole però. Sì, no, una cosa tristissima. Ci sarà sicuramente, lo stand del paglio di Siena qui in giro, adesso arriveranno a sfondarci lo stand. Comunque, dicevamo, tu ti sei messo quel fazzoletto e da allora te lo metti sempre, ma per qualsiasi viaggio. Sì, quando parto posso non metterlo. Sono andato a Londra una settimana fa per qualche giorno e non riuscivo a trovarlo, la sera prima ho sventrato la casa per trovarlo. Ma scusami, te lo metti al collo, Enrico? Sì, al collo. Cioè, quindi tu vai in giro con un fazzoletto orribile bianco. Ormai è diventato bianco. Sarà stampato in filo. Enrico, ti ringrazio moltissimo. Se sei da queste parti, passa di qui che ne vale la pena. Buona giornata. Ciao, grazie. Prima di sentire Antonio da Livorno, c'è un'altra cosa, un'altra piccola fotografia dalla BIT, ed è che c'è un ragazzo con una pettorina che passa a distribuire dei giornali da viaggio, credo si chiamino tipo agenzia di viaggio. L'ho visto con i miei occhi, lui passa e lascia questi giornali su tutte le sedute, se c'è una sedia, se c'è una panca li lascia. Dopo poco passa il ragazzo che pulisce e c'ha un bidone, li prende e li mette nel bidone. E questa scena si ripete. Per tutto il giorno. Andiamo da Livorno ad Antonio. Pronto Antonio? Ciao Matteo, buonasera. Ciao, io buonasera. Sono qui, ma non sono lì. Bravissimo. Insomma, ognuno il proprio posto. Verrebbe da dire. Tu hai un rituale che ha a che fare con il bagno, mi sembra di capire, Antonio. Senti, no, io stiamo parlando ovviamente di viaggi che durano più di qualche giorno. Sì, certo. Dai 4 giorni in su, perché certo. Altrimenti. Allora, il rituale è un classico. Dunque, io la sera prima di partire devo farmi una lunga doccia, di quelle proprio lunghissime, che è con oli essenziali, è come se dovessi in qualche modo purificare il corpo. E la mente anche un po'. È un po' come dire, usare tutte le risorse del pianeta anche. Sì, usare tutto quello che ho a disposizione. Consumarle. Tutto insieme. Benissimo. Ma poi non solo. La sera, la mia cena prima della partenza è costituita da un mega zuppone di latte, ma quasi 2 litri di latte, in cui ci metto dentro una marea di biscotti, tanto da creare una sorta di trasformazione di stato, cioè il liquido diventa solido, per cui ci metto tanti di quei biscotti che non me lo bevo il latte, ma lo mangio. Te lo mangi, bello, immagino. Sì, lo mangio. Ma per quanti anni hai? Tanti... Io ne ho 47. Nei 46, per metterci tanti biscotti? In 2 litri di latte, vuol dire che ce ne devo mettere tanti. L'ideale è nel periodo natalizio che ci metto il panettone. Va bene, panettone, Antonio, guarda, nel latte fa una roba che non voglio neanche pensarlo, però ma Antonio, io starei... Ma Antonio, lo immagino. Io starei ora a parlare con te, Antonio. Tu sei proprio di Livorno o Quercianella, No, io sono Livorno. Sei Livorno. Di qualche altra volta. Io sono in ma io lo so, perché i livornesi mi danno sempre una grande soddisfazione. Antonio, se passi però di qui, fai un salto alla Bite. Da domani è aperta al pubblico. Buona giornata. Volentierissimo, grazie. Ciao, grazie mille. Ciao. Andiamo da Anna a Torino. Pronto, Anna? Sì, ciao, sono io. Ciao, benissimo. Dove sei? Sei a Torino, ovviamente. No? Sono a Torino, sì. Ho mio figlio lì al salone, quindi tutto. Ma dai, ma allora potremmo fare attenzione, un cercare tuo figlio e farlo venire qui in diretta. Chiedo a Elena Ligios, che è qua fuori. Niente, allora lasciamo stare. Dimmi che cosa... Beh, di solito è così, è esattamente così, ma era per quello che noi lo facevamo. Dimmi quali sono i rituali prima della partenza. Allora, io ho una panchina di legno molto bella fatta da mia suocera sul balcone di casa e sta lì tutto l'estate. È talmente bella quella fatta da tua suocera che la tieni sul balcone, appunto. È bella perché è di legno. Ah, perché, scusami. Fatta quasi artigianalmente. Sì. Quando parto, diciamo una volta o due all'anno, io prendo questa panca, la porto nella camera da letto, metto su un asciugamano di tela bianco, che è quasi sempre lo stesso, una tela grezza, anche lì molto vecchia, e poi metto gli indumenti che userò, che so più o meno che userò, quindi penso proprio a lunedì metterò questo, martedì quest'altro, mercoledì, eccetera. Questo e prima di qualsiasi viaggio, Anna? Sì. Anche se è solo un trolley per due giorni. Sì, poi sono molto, cioè non metto molte cose, metto le cose essenziali, quindi faccio delle valigie leggere da poter trasportare. Anna, se incontro tuo figlio da queste parti, c'è un modo per farti aiutare. D'altra parte, ognuno ha le sue perversioni. Ti ringrazio moltissimo. Buona giornata, Anna. Grazie mille. Grazie a voi tante. Dobbiamo chiudere. Grazie a te. Dobbiamo chiudere. Prima di chiudere, però, e salutare tutti quelli della Bit, c'è un pezzettino che vorrei leggervi. Tra gli altri, semplicemente oggi si parlava di viaggi, quindi quello abbiamo pescato. Che è preso da un libro che ho letto quest'estate. Si chiama Le mappe dei miei sogni. È la storia di questo ragazzino dodicenne che è una sorta di mappatore, cioè uno che disegna qualsiasi cosa incontri e qualsiasi cosa vede. Sta per partire per un lungo viaggio attraverso tutti gli Stati Uniti e si prepara la sua valigia con cinque tappe in questo modo qui. Il bagaglio in cinque fasi. Fase 1, visualizzazione. Vedevo e rivedevo con l'occhio della mente tutto il programma del viaggio. Mi annotavo tutte le potenziali insidie del percorso, tutte le occasioni in cui avrei potuto estrarre la mia strumentazione. Fase 2, inventario. Raccoglievo sul tavolo da disegno tutti gli attrezzi e gli articoli di cui avevo bisogno e li disponevo in ordine di importanza. Fase 3, assemblaggio parte prima. Una volta identificati gli oggetti che non avrei potuto portare con me a causa dello spazio finito, lasciavo questi sul tavolo da disegno e procedevo a imballare i restanti oggetti essenziali, che avvolgevo con plastica e nastro adesivo, in modo che le apparecchiature delicate non si danneggiassero negli spostamenti. Fase 4. Il grande dubbio. Inevitabilmente, un istante prima di chiudere la cerniera della valigia, gli occhi mi cadevano sull'aspiratore entomologico, sul sestante o sul telescopio 4x che avevo tralasciato. E a quel punto mi vedevo costretto a ripensare l'intero viaggio e la mia esistenza nel suo complesso. Fase 5, assemblaggio parte seconda. Così ero obbligato a rifare i bagagli da capo. Di solito, giunto fino a qui, ero già in ritardo per la scuola. E niente, abbiamo finito. Nel senso che dalla regia mi chiedono un saluto brevissimo, proprio così ha detto Viola Bottoni. Ringrazio lei, ringrazio Luca Rinaldi che è qui con me e Paolino Corleoni che anche lui è qui con me, non saremmo andati in onda. L'ultimo messaggio è quello di Marco che dice: prima di partire il mio rituale è tagliare il bancomat e buttare il telefono. E però vi leggo un altro messaggio insieme che dice: c'è proprio poco da ridere, il conduttore si merita i suoi ascoltatori. Lunedì non lo so, ma oggi io sono qui alla Bit. E voi dove siete?